sono. Come mai? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E adesso? Allora, io ho Santiago 9, Radio Quarta. Si sente abbastanza bene. Ma adesso aumenta tutto, forse te ne fanno un po' lontano. Vedi. No, sto uscendo con quelli che ti capisco. Un attimo, adesso va bene, va bene. L'importante, Mario, e non so se hai parlato. Perché questo macchino bisogna, quello CTE, bisogna spingerlo proprio sulla punta. E poi deve schiacciare di più allora. Che me racconti? Che te racconto? Stavo prima riposando, mio cuore, sono francello, ho preso qualcosa, ho acceso e... come stavo provando così? E anche io sono a letto. Siccome quelli che te libero sono stato qui comodino, capito? E per non stare alzandomi, facendo qua e là, capito? E me l'ho messo qui vicino. Positivo, già va bene. E già va bene, Mario. Sto scendo adesso, va bene? Positivo, benissimo. Beh, allora tutto sta andando bene, ok? Ma... era un giorno senza sentirti. No, è che sto entrando molto e sono sempre fuori per lavoro, Cagliari e via dicendo, capito? Naturalmente lui che si lavori, quella è la cosa più grande. Dopo, qui c'è sempre tempo di entrare a fare due chiacchiere. Sì, beh, a volte ci sentiamo quando capita la sera. O qualche giorno che sono in zona e sono in camion andando a caricare una parte all'altra, e capita quei giorni lì che ci sentiamo, Mario. Se no, differentemente sono fuori, capito? Io non so e non sei uscito, ma sei tu, perché sei una portata schiacciata, no, non sei uscito. Ogni tanto mi scappa. Tanto faccio chiamata, tutti i disertori, tutti abbandonando stanno. Sì, ma purtroppo, anch'io ero, c'era il socio del mio figlio lì fuori al sole, chiacchierando oggi, no? E guarda, chi non proprio niente, dai, stavo aspettando gli altri giorni, era una bella giornata. Ok, adesso è già un periodo di... quando... questi aggeggi e per i campionisti, per chi lavora nel proprio domicilio, sono pochissime le persone che ce l'hanno e quelli che entrano entrano poco. Sì, ma lì c'è entrato uno che era vicino al produttore, da produttore si è mai detto, ma uno lo conosce, dice che è un vecchio proprio GP, ha detto che era. Come sono qualche cosa, no. Ma poi mi è sparito, dai, non ho capito, era un vecchio CP, non ho capito che fosse, non me l'avevo, non me l'ha detto, ma sentiva una persona adulta parlando, ma non ho capito chi era il produttore. Come si chiama, non te l'ha detto? No, non me l'ha detto, e mi è sparito dopo, dice che stava provando qualcosa, ma un vecchio, ha detto, proprio vecchio, uno dei più vecchi, ha detto, poi non so chi fosse. Se lo dovesse sentire, io già lo stesso sono uno di quei supplementari HI e già quello di Porto Toro li conoscevo tutti, in cui no, ho fatto parte anche dell'associazione giù a Porto Toro, adesso anche quella lì si è sfasciata da poco pochi anni e abbiamo abbandonato tutto. Positivo, dai, lui mi ha detto la papà, lo parlava un po' in gergo, il tipo codice parlava, e a me mi sembrava Michele Polvero la prima voce, tu amiche, ma dice no, sono, ma tu sono un vecchio, dice CP, poi non so cosa sia successo. adesso, va bene? Sì, no, no, no, niente, no, cosa succede, Mario? Tu stai parlando, schiacci la telemare, solamente la portante a Santiago 9, basta, non c'è la voce. Solo, capito? Sì, cosa vuoi? Questo qua è... Io ho portato questo proprio per lì, per fare un po' di compagnia. Sì, sicuramente non va al massimo, hai capito, e... E già c'è la micaccia nostra, ma già abbiamo qualche cosa da controllare, ya. Se ce la può fare lui adesso. Ok. Lui, siccome c'è la televisione accesa e ci sono ragazzi in quanta con mia figlia che volevano vedere la televisione, sto un po' disturbando. Ciao, mi ha fatto piacere di sentirti, già ci sentiamo questo pomeriggio magari. Positivo, dai, ciao, male, dai, fai conclusivo la serata, e no, attendi, qua non ci facciamo due chiacchierate, ci fa piacere, poi lasciamo stare da parte il baracchino, vai, tranquillo, Mario, se qui ci dà più tardi, ciao, Mario, ciao. Pronto, sono Radio Usi, quelle guazzate come questo qua, poi... La festa che avevo 23, figurati. Contarne più tre, vanno molto molto bene. E questo si abita al mobile con questo microfono. Quale? Il tale più tre? Oh, no, questo che sto modulando io adesso. E quello va bene, sì. Qual è il problema? Quello è il microfono originale e va bene. Va bene, sì, ottimo per la truppa, non c'è nessun problema. Pagata. No, buona. Bene. E per forza deve andare bene. Non c'è nessun problema. Va bene, sì. Lui c'ha il microfono normale ormai. Lui se lo devi mettere in macchina a qualche parte, poi puoi farlo tranquillamente. E anche per quello, è vero, nel caso si mette in macchina il microfono, puoi modulare tranquillamente senza problemi, perché quelli a tavola è un altro discorso, ma il palmare è un altro, K, ma andrà bene mena. Ottimo per la truppa. No, poi cazzo, se c'era Gigi, io non sono neanche entrato su 5, dice che è entrato un vecchio CB, non si è presentato, ha detto che lui era un vecchio CB e poi è sparito. E non si sa, e non si ricorda neanche chi sia Gigi, ma è uno dei vecchi CB. Allora era Gigi su canale 5. Eia. Stavo per chiamarmi sul 10. Le facevo sentire la radio, e invece era sul 5. Sì, ma poc'anzi per ombi. L'hanno prima di salire a casa tua, sul canale 5, no? C'era Mario Mao, basso, e niente, no? Io stavo in un ascolto e basta, lui sono passato sul 10. No, sei entrato tu. Wow. Sono entrato io, stavo solo ascoltando e basta. Va bene, no, più tardi adesso mi voglio. Più tardi faccio questo microfono. Lo apro, lo faccio bene. Non questo che sto usando adesso in saletta. Voglio vedere se è sporco. Proprio sotto dove c'è la mele, capito? Beh, certo, un po' di polverina ci sarà, senz'altro. Sicuramente sì. Se ne ha voglia dopo, te lo apri, te lo controlli, piano piano, già... Tutto tocco. No, a spingere, si vede. E solo quel problema quando magari innesca poco a poco. Però con modulazione buonissima. E aspetta, pulita, chiara. Beh, già sono microfoni buoni quelli. Non lo voleva sentire Luigi, invece non era convinto che andava bene con immagino. Che avagava. Sai, quando mi avvicino sente di più la voce, no? Alla grande. Vagava. C'è andare bene, c'è andare bene, ma si incontra lì, andare bene. Va benissimo, sì. Adesso gli ho detto portarmene uno. Uno per questo qua, per la faglietta KB23, di quello è lo stesso la Proxel. Ma non va a Cagliari, io devo andare martedì ma non ne ho tempo. C'ho una riunione a mezzogiorno e un quarto, devo essere lì alla direzione generale, devo anche scendere in fretta, perché sono anche reperibile di pomeriggio, quindi. Capito? Insomma, in mattina devo andare a farmi questo storico all'ufficio di collocamento, che vogliono un certificato storico, invece i nominali non hanno più tutte le mie presenze. Ah, le arrivo dei popoli, cosa? Ui, ui. E vabbè, li accontentiamo ancora per poco, Lu, poi vediamo cosa decidono di fare. O decidono loro o decido io. No, c'è di morire, poi clienti. Sono confuso, io sai che sono entrato alle 8 di sera, di sabato. Ehi, addirittura? Ehi, alle 8 di sera. Perché ero a Bancali che stavamo giocando, abbiamo pareggiato anche ieri 2-2, avevamo uno squadrone, uno l'abbiamo vinto, l'abbiamo pareggiato. E alle 5:30, 5:15 mi ha squillato il telefono e ce l'avevo appresso. Che sicuramente c'era qualche problema, fortunatamente ero vicino lì alla corte, infatti sono andato alla corte e c'era una pompa bloccata. Provato a farla andare ma non va, chiamato l'elettricista, non va, ed è schiavettata, quindi domani ci sarà questo intervento, ma io devo farmi questi documenti, quindi mi avvicinerò a metà mattinata e altrimenti bisogna metterla nuova. Positivo. Io ne ha dato bene una, guardi, ho invitato, ce n'è una. Più di una venendo, è dugna di così, è ogni giorno così. Gappa. Ma, che si può fare? Ma, adesso, se metti a posto tutte cose, tu vedrai che è tutta un'altra minestra, sarai più riposato, tutto quanto, lo stai lì a... andato, va, come si dice bene, è tutta un'altra cupa dopo, dai. Sto volendo che siete fuori casa con la Fiorentina. Insomma, la mattina. Cagliari sta pareggiando fuori casa col Chievo. Questa sera c'è Inter-Juventus. Ma il partitone dovrebbe essere Inter-Juventus. Cazzo, Lazio sta vincendo. È un partitone, devi jugare, che l'Inter è molto forte, sicuramente la battosta gliela dai. Quello è poco ma sicuro, lì si deve attrezzare il battaglio, quello di Juventini, se vuoi pensi, anche l'Inter è forte, proprio così. È forte sì. Attacca di l'altro, io. Attacca Banda. Altro? Attacca l'altro e esci più forte. Quello te lo usi quando sei rilassato. Cappa, comuto. Comutas. Chiama De Rogero, va se chiudo come do l'altro. Yeah. alle 10 è tutto. Eia, eia. Ha scuffato la Luigi stamattina il lavoro che hanno fatto a quel... a come si chiama? A quel garage brutto, che sta bellissimo. Io ho sentito, erano qui, sì. No, hanno fatto un lavoro all'interno allucinante. Capolavoro l'ho fatto. Sì, veramente bello. Caparoglio. Quando si lavora non si detta. Sì, guarda che mi allontano. Sto mettendo roba dentro l'armadio. Vedi ci sei. Se mi senti sempre, vuol farne più tre. Mi hai sentito? Sì, a voglia. Bene, bene, bene. Niente che tu lo come fai le carte in cuffia blu? Cos'è? E cosa? La maschera si la porta? Ehi. Che va detto? Ma che l'altro lo fa? Non sai che cos'è? È il relè della KB23. C'è un relè per commutare la roba portante. Pure lì. E quindi quello fa. Il mio lo fa con lo schiaccio. Prova. Ehi, ma di meno di questo. Di meno di questo lo fa. Dunque lo fa. Ti domani la bomba, Tom. Quando ci ci vediamo, ti do il denaro e non ci sono problemi. Positivo, ora io me l'ho già rivendicato, se volete dire la verità. Me l'ero anche rivendicato, buonasera e ben ascoltato. Ah, buonasera anche a te, ben ascoltato. Cosa dimenticare. Appena ci vediamo, con un vicino scendiamo, così ti porto la commissione, non ci sono problemi. Positivo, no, perché ho preso quelle lampadine a Gianni, me ne vedo che a Bambu Buglione. E l'ho visto che ce n'era, che le ha ricordate c'erano. E allora se l'ho preso, e ce l'avevo qua, e dopo l'ho preso qua, le ho detto ci sono problemi, l'ho preso, lui mi ha detto riprendere, gli ho detto dopo, se poi non lo vuole, già non ci sono problemi. Se te ho chiesto è perché lo volevo. Anzi, ci sei, ti faccio la provetta così mi senti un po' come esco. Positivo, allora ricordi quando la tavola c'è sempre meglio, eh? Ah, pagato grosso. Oh, Gigi, questo è il salente, È bello, ma non è forte come quello. C'era una differenza di campo, se la una è dinamica, una è ceramica. Sono ascoltato, funziona anche questo. Quello là, il 3x3 con la KB23, no, non c'è per nessuno, io l'ho usato, guarda, il Tamer più 2, non il più 3, il più 2 con la faietta KB23, negli anni 80, e ti posso dire che è un gioiello. Veramente, veramente una canonata. Comunque anche questo funziona bene, il salente, Va benissimo, si ammira bene a quella radio, però è bello, perché se avete un va bene, troppo bello, capito, ma l'altro c'è qualcosa di speciale, quell'altro microfono là, c'è qualcosa di speciale, questo è bellissimo, e attenzione, va bene che bene. E sì, mi sono ascoltato, va benissimo anche questo. Va bene anche questa, fatemi, ti faccio sentire perché qua c'è il bimbi, vedi? Sì, il bimbi è, c'è il bimbi dietro. Però questo non è al massimo, perché se lo metti al massimo fischia, quindi sicuramente spinge lo stesso. È da pulire. È da pulire bene dentro, piano piano, con l'acetone, non si pulisce mai con nessuno spray, solo con l'acetone. E poi vediamo se va bene, dai. Oh, senti, no, quello te lo pulisci, non lo pulite, come me l'ha dato, e quello lì, dai. Ho cambiato le connessioni del microfono, dello spinotto, per abbinarlo e basta. E non ho fatto altro, non è stato aperto, io non ho aperto, capito? Io ho aperto quello lì, ho cambiato, messo la batteria lì e basta, ho cambiato la batteria e l'ho messa nuova lì. E niente. Vai Anto, che ho riattaccato il 3x3. Attento Gigi. Ehi Anto, modula, parlamene. Guarda un po' come mi ascolti, come va, vedo un po'. Positivo, va bene, ma tu il mobico prima stava adottando il mobico o l'87? 87 prima. Parlaci vicino al microfono e parla attaccato al microfono, quello di prova a fare un passaggio attaccato al microfono. Sono attaccato al microfono, come va? Ecco, fare il suo passaggio staccando appena un pelino. Vedo un po', adesso mi sono staccato un pelino, va bene? Va benissimo, staccato un pelino va benissimo. Va bene anche quella, va bene la modulazione, va bene, è un microfono normale, ma roba è bella, pulita, chiara, mi può confermare Claudio. E il microfono è normale, però la radio è perfetta, pulita. È positivo. Come trovo l'altro, Vero Claudio, come radio è pulitissima, è perfetta, Sì, perfetta, sì. Io mi sto attaccando là. La colonia esterna lì, la ricaffare perché c'è un po' la colonnina. No, ma è perfetta, tu è perfettissima. Micidiale sul microfono, è micidiale. Già te lo procura, Claudio, non ti preoccupare. Ero già al computer stasera. 5 punte. A 4 punte sarà, a 5, poi tra che cosa 5 punte? Questo microfono che mi hai dato, adesso è a 5 punte del mobile, giusto, su, ho capito. Sì, no, non ho mai capito cosa ti voglio dire. Tu hai scartato il microfono a tavola con l'87, giusto? Positivo. Tu non c'è quello con il microfono, lo puoi attaccare al mobile, non si può fare. Quello rosso nel letto forse va un po' a somigliarsi a quello là. proietta KV-23, è un treno più treno a tavolo, stiamo parlando di cose abbastanza vecchie, quindi va bene, non tutti piace, vabbè, Luca è abituato a sentirmi col chemo, non è che, però io mi ascolto e ti dico che questa spinge parecchio ed è molto chiara anche come modulazione. Si chiama per attaccare quel microfono e l'hanno provato e ricezione, non è un altro, eccetera. Non c'entra niente. Ecco, c'è si è inserito il l'avventore, l'alimentatore. Avanti, a tu. Ti attacco il terno più 3. Oh, K, per me sono tutte e due micidiali, tutte e due micidiali. K, belle, belle, belle, belle, veramente. Vanno bene quei microfoni, io so io che vanno bene, capito? Perché vanno bene, poi secondo me anche la timbrica di Claudio, la timbrica della voce, come anche tu, anche a te va bene, perché tu c'hai risalta molto, là, diciamo, col microfono amplificato, anche con un microfono normale esce bene, più o meno anche io, perché io devo però sempre il microfono normale, perché già la voce mia è già, ti faccio una voce grossa, già normalmente, senza avere il microfono a tavola. Infatti si conferma, è vero, è vero. Dipende sempre dalle corde vocali, dalla voce, no, ma è bene, bene, bene. Io se tutte e due sono omicidiali, sono omicidiali veramente, ma. Sì, però senza offendere a nessuno, senza offendere, se non si sia l'ascolto, però senza offendere. Se ci modula Alessio Pomponio, dunque il microfono non è bello, ma non è senza offendere, per la timbrica della voce sua. Sì, infatti, per la timbrica di voce più che altro, no, no, stiamo parlando di timbrica di voce. Se non si addice non va bene, è vero, non va bene, e dipende sempre dalla timbrica della voce. Non sono ad alti livelli con la modulazione, perché ancora sono un po' rauco. Quando mi passa questa velocità ancora sto prendendo pastiglie. Sicuramente viaggia molto meglio. Se dici così, maestro, l'ha messo quell'aro, hai piazzato sulla Fayette il Terno più 3. Sì, adesso sto andando con la Fayette il Terno più 3. Sempre se piace il parere un po' di tutti, bisogna sentirlo, no? Non c'è problema, sono in monitor e ti dico che si sente benissimo, è una signora in radio veramente. Perfetto, perfetta, bella modulazione, senza disturbi, senza nulla, bella, chiara, perfetta, 101%. 101%, va bene, va bene. Aspettina se va bene. No, scherzo, ce le posso le quelle radio lì, Claudio? Ce le posso le commercio? Sì, già c'era qualcuno che ce le volta ne più tre, e poi se ne è disfatto. Io non l'ho mai dato perché non sono microfoni da Luigi, capito? Da avere così, adesso me ne sto procurando una Luigi. Ho già mandato un'email al computer a questo radioamatore di Faenza e lui ne ha di questi microfoni. Vediamo se mi risponde, perché non c'è sicuramente, se non avrebbe risposto è acceso il computer, ma no, non vedo messaggio, ma ci conosciamo, quindi mi manderà sicuramente il messaggio. E l'ho chiesto la quotazione, quale modello ha, se ha questo che ho io ho il Terno più 3, quello il Super Sideric, quello cromato, che è una bomba. Se c'è questo, perché ne aveva di questi, oppure se c'è quello grigio, basta non mi dia il Terno più 3D, perché quello lì è una cagata, quello non è originale, non serve a niente. Non serve a niente. Gli originali erano questo che ho io, quello cromato e quello grigio, basta. Gli altri sono venuti fuori dopo, tutti fatti da altre case costruttrici. Questo è marcato Turner, ed è così. E c'è poi sotto la targhettina Made in Germany. Ok, avanti Gigino. Positivo. No, è bello per averlo, adesso come stai modulando tu, averlo con un apparato, vedi, anche un apparatino, quello che c'ho su, piccolino, vedi, quello che c'ho appeso piccolino, quello me lo porto su a casa, vuol dire l'attacco, lo posso mettere a mezzo volante, posso fare la chiacchierata anche se c'è il negozio aperto. Ecco, un microfono del genere si sente, si fa sentire abbastanza pure. È già lui che si fa sentire, sì, ma guarda che quel baracchinetto piccolino va molto bene, mi piace anche con le passato gli ordini. E ci sono stati quei vantaggi, dai. E poi dice bene, sono dei microfoni che escono bene, non c'è problema. Escono bene, sì. Non c'è problema, non c'è problema, va più che bene. La fettina se va bene. Si è andata molto, sia uno che all'altro, e vanno bene. E almeno dai problemi del microfono adesso già, grazie a Dio, già va bene. No, no, non c'è problema. Ricordati quando hai 2 minuti facciamo quel cambio di spugna, così ti do la tua e io ci metto quella lì qua. Sì, sì, sì, non c'è problema, quando vuoi, quando ci vediamo, me lo metto un po' da presso, così te lo lascio. Non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema se vediamo se domani mattina riusciamo a prendere il caffè. No, questa è proprio la sua, quella stretta è la sua, perché c'è anche stare attenti quando le metti tu una spugna antisoffio, che non è la sua, che è troppo grande, magari va, la modulazione va un po' a disperdere, capito? Invece questa è proprio sua, appoggiata proprio sul piantone suo, sulla capsula. Ma in effetti hai anche ragione. Niente di strano che andava a dispergere la voce proprio per la questione della spugna. Può essere, io le spugne che ho sono proprio per quei microfoni, sia per l'MC60 che per l'SM20, capito? Dalle più 3 non ne ha bisogno di spugna, perché c'ha la retina davanti, poi è bellissimo così, perché c'ha tutta la parte della capsula tutta cromata e quindi è bello così. Mentre il Salenta c'ha la spugnettina piccola, è piccola per quello lì, mentre va bene per quello che c'hai tu, capito? È piccola e quindi magari è un po' più chiusa la capsula, rimane un po' più chiusa. Ehi, ehi, ehi, no, quella è omicidiale, quella cromata, no. Fa la sua figura così e se ne metti la cuffietta magari... Sì, sarà bella, però è bella com'è, a me è subito che è andato via. Veramente bello il microfono. No, Salenta c'è una bella linea, è un bellissimo microfono cromato, molto bello. Molto bello. Va molto bene. E vabbè. Poi che si va? Non scaula, niente, il 23 canale, che è proprio, guarda, me lo ricordo, è come che. Che stiamo tornando, che sono tornato indietro nel passato, proprio così, guarda, io lo usavo negli anni 80 questa radionina ed era una canonata. No, ma si sente anche la modulazione bellissima, perfetta, chiara, no, è che aspetta, di lusso, vediamo un po' se ha preso Gigino, avanti Gigino. Via, Daniele, è provato a vedere quanti watt esce, provato. Sì, modulati quasi 5 watt, 4 watt e mezzo abbondanti. Allora, tu, io sto controllando qua, l'importante è quando la schiacci è un Santiago di 8, poi il modo dei picchi fanno 9, 9, 10, da 9, da 9 a 9, 10 arrivano i picchi, quando parli però è... giusti, belli, puliti, tranquilli, senza nessun problema, tanto ci sentiamo lo stesso qui. Se qualcuno non mi sente, poi commuto il 440, non è un problema quello. Allora, parchetto vuol segnare, parla perché mi sembra che sei del 2. Attenzione Gigino Vulcano, se mi vai doppiando capano oggi no. Allora, il tuo è 7, picchi quasi 7 e mezzo, sempre positivi però, invece il Claudio è 8, tanto c'è 10 watt, lui ne ha 4 e mezzo, e 8 e picchi arrivano 9, 10, 9, 5 da quando modula, proprio sono positivi e un po' muovono un po' di più, sono più... peso, dicevate, sono più basso la verità. È da dire, però quella radiolina spinge, spinge benissimo. Grazie, ma voi avete reso conto che questa radio è nata nel 1979. Nel 79 io l'ho comprata da Scarpa, l'ho comprata da Pintus e Scarpa in via Cavour, questa radio. Nel 1979 la pagai in lire, 70.000 lire, nel 79 70.000 lire. E poi siccome conosceva i miei soci che c'erano negozio in via Cavour, di arredamenti edilizia, allora sono tornato indietro e l'avevo detto che le davo una risposta. Insomma, il riferrafo me l'aveva lasciata 60.000 lire, nuova, dentro la scatola, la faietta KV23. Dopo qualche mese procurai e comprai il Turner più 2 da tavolo, che più o meno aveva lo stesso colore della radio, uguale, così come sono adesso. Con quel microfono era una cosa spettacolare, così è tipo questi livelli, ecco perché io mi ricordavo questa cosa, e quando l'ho vista lì da te, lui ho detto mi dispiacerebbe averla, perché avendo il Turner più 3 ho detto non posso sbagliare, se mi ricordo bene non posso sbagliare, è una radio a PLL quadrata, quindi con relè di commutazione, commuter relè, e quindi ho detto deve andare molto bene al Turner più 3, perché il Turner più 3 con quel tipo di radio va molto molto bene. Perché non si muoverà mai da qua, mai e poi mai. C'è una ricezione, allora ho attaccato la colonnina del 440, vi sento meglio senza colonnina, ci credete, vi sento meglio senza autoparlante esterno, che già quello del 440 è un autoparlante esterno professionale, vi sento con il suo autoparlante della radio, una cosa spettacolare. Cambi. Vabbè, lui, non c'è bene lui. vecchia, una vecchia radio, quindi sai, le vecchie radio sono sempre ben accette, perlomeno a me mi piacciono sempre, mi sono sempre piaciute, ma poi avevo il 33 che era fermo e quindi abbiamo avuto anche la fortuna che le connessioni erano uguali, hai visto, abbiamo messo la batteria e tutto a posto. Devo sull'Alan 48, quella è la modulazione. Quello? Io tu mi metti a risame. Perfetto. Allora sto dicendo, io lo conosco una vita sto baracchino. Anche col microfono normale non aveva invidiato niente. È ottimo, proprio perfetto, non ci sono problemi. Mi pare aver sentito qualcuno avanti che vuole entrare sul canale 10. Buonasera a tutti, qua Franco, ma. Non ho capito. Salutoni a tutti. Salutoni, chi sei? Fantomas. Fantomas, buonasera Fantomas, ben ascoltato. Claudio Sparviero da Sassari. Avanti Antonio. Quindi esce bene? Ah, esce benissimo. Ok, salutoni Fantomas, in compagnia di Claudio Sparviero da Sassari. Da me sono scritto la Parchetto e Gigi Roca. Avanti Fantomas. A parogia, salutare a tutti. Ma sarà quello di ieri che è entrato ieri, ha detto che eravamo un anziano del CP, sento. Ieri, no. No, un altro nuovo, sì. Che senso nuovo? No, ma senti, dove sono menato io, ho capito. Ci sono dall'86. Ma ieri, sei tu che sei entrato e stavi dicendo che sono un vecchio CP, eri tu, ieri, mi sto sbagliando persona. No, ieri no, sono entrato la scorsa settimana, sì. Ieri stavo parlando, ma tu sei vicino al promotore, sì. Oh no, c'è stato di vecchio. Ah no, un altro sì, allora, perché ieri è entrato un altro e un altro vicino al promotore, se però c'era un operativo non mi ricordo. Anche capito. Fantomas, io conoscevo un vecchio Fantomas, appunto degli anni 80, io sono Claudio Sparviero, nonché Claudio da Sassari, come sempre. Fantomas, io mi ricordo questo nominativo, però non vorrei sbagliare, ma se sei datato 1986, allora sicuramente sei tu. Ma Parogia, penso che ti ricordi anche mio cugino, che è Roberto Bandito. Ah, infatti, te lo stavo per dire, sì. Tu sei il cugino di Roberto Bandito. Perfetto, perfetto. Ma è Roberto poi, è tornato o è ancora fuori? No, sta ancora fuori, a Modena. Ecco qua, allora ci siamo, sì, lui è un vecchio CB anche questo, è il cugino di Roby Banditos. È un bandito veramente, ogni tanto viene, scappa, sta un paio di giorni, siamo sentiti l'estate scorsa. Quest'estate non l'ho sentito, o l'inverno scorso, ma non mi ricordo. Va bene. Ok, comunque ciao Fantomas, è ben arrivato, è ben entrato. Avanti Antonio Falchetto, cambio. Positivo, positivo. Bellissima, bellissima radio Fantomas, guardi di una schioppettata lo stesso. Microfono della Intec. È positivo, no, quella radio. Ma che radio hai? Non lo so, mi è stata regalata. Ah, positivo. Vabbè, non c'è scritto che è radio. No, solo Intec. Ah, positivo, positivo. Va bene, va bene. Riprendi Gigino. È positivo. Comunque, Claudio, è entrato anche un altro ieri. Che non metto che anche questo era un vecchio che mi di tanti anni, di quegli anni lì stesso. Non ho capito il nome attivo, ma ha detto che era il Lore Polo Torres, che lui stava modulando la Lore Polo Torres e aveva ripreso in questi giorni, stava piazzando e montando nuovamente qualcosa. E poi ieri è entrato, un attimo stavo provando, è entrato, però non ho capito la Polo Torres, mi ha detto, però parlavo un po', si assomigliava un po' a Michele Polverone, pensavo che fosse Michele, capito? Invece no, si assomigliava un po' come modulazione a Michele. Però parlavo un po' in giro come parlate voi dagli amatori, mi capito. Può darsi che sia qualche... come parliamo noi, io parlo al 27 parlo normalmente, così come parlate tutti, no? Mai metto codice qui in mezzo, eccetera, non mi interessa. Ma questo può darsi che sia qualche vecchio GB, poi è diventato radioamatore, quindi sai... rimane sempre la parlantina, quella ufficiale, che poi alla fin fine non serve a niente. È importante parlare come si mangia e basta. Vero, Fantomas? K Rogers. Vai Antonio, Antonio vai, che vado a bere io, mi si accende la bocca con tutti i bravi microfoni che è. Oi oi oi. Ehi, K. Allora quanto Mas? Hai ripreso? Diciamo di sì, perché anch'io qua sono in visita. Sì, qua di passaggio diciamo. Diciamo di sì, sto abitando per adesso, sono già da 3 anni su ad Anzio, provincia di Roma. Ah, positivo, allora sei in fede poi a me. Cappa. Positivo, positivo, riprendici il giro. Cappa Rogio, ma lì a Roma in Padea Anzio ci moduli o niente o neanche dove sei in provincia di Roma? No, lì niente, ce l'ho solamente qua, siccome l'ho collegata dopo tanto, sto montando anche su una Mantova 1. Ah, ho capito, ho capito. E che ce n'è in quella zona di Roma? Ce n'è perché capita stasera a fare qualche viaggio lì e in camion e ce ne sono parecchie in quella zona lì. Ce ne sono di stazione fissa, parecchi, parecchi veramente modulando sulla zona di Roma. E lì usano anche gli lineari, Non so, ripeto, c'è solo un altro... L'inizio dell'estate che sono andato a fare un viaggio e c'erano parecchi la mattina lì qua in vicinanza di Roma che stavano tutti modulando in stazione fissa, c'erano i fissi. Sì, è vero, è vero. Nelle formazioni erano un po' sbagliate, questa è stazione fissa perché eravamo sardi, mi davano le formazioni un po' sbagliate. Tu sono un pochettino, diciamo, scettici di queste cose qua, sono tutti fatti per conto proprio. Sì, c'è stato qualche camionista della zona, voi che ci ha indicato giusto, ma questa stazione fissa, se ne portavamo a loro, ci mandavano, chissà dove. Lo so, guarda. È capitato poi qualche camionista che è in mezzo della zona, no, ci segue a me, lì, quindi non girare lì, segui. Allora, ci volevamo fare chissà, quello che raccordano là, intanto... Cioè così a girare in tondo, e andranno 50 km sono di più pure. Perché lì poi al tondo impazzisci, se sbagli poco è un casino. Sì, se sbagli lì è un casino veramente, se sbagli ingresso... E l'abbiamo sbagliato perché abbiamo superato, perché noi dovevamo entrare a Torre in Pietra e invece l'avevamo superato e ci siamo accorti. Figurati. Ma stavamo chiedendo come potevamo fare per riprendere, capito? Per riprendere il raccordo anulare che avevamo superato e con questo avevamo per uscire per arrivare dove dovevamo andare noi. Ah. Eccomi qua. Sono le 3:30, 4 meno sicuramente sì. Scusate, ne approfitto a bermi un bicchiere d'acqua. Dai, c'è una cosa contagiosa a me. Cazzo, vuol dire tu, hai mangiato. Ehi, ah. Ti prendo subito. Sì, fai, fai, fai. Fai, fai. Beh, niente, Claudio, capito, io voglio fare qualche... quello che ho voglia, ma non è una giocata di farlo, ecco. Vedete, è incasinato con batterie e cose, solo. Volevo mettere lì, se me lo lasciamo ordinato come era prima con la cameretta, ma mi hanno smontato il divano da sotto il letto, sotto quello maglioletto, e invece hanno buttato gli strumenti, le chitarre e cose, ti metto ai piedi, è un casino, ecco. Ehi, già l'ho visto lui, già l'ho visto e va bene, dai. Comunque se fai quel sistema che hai detto va bene, non è che ottimo per la truppa lì. Sì, perché lì ce l'ho già portata di mano il coso, capito? Fare un po'. E poi sono lì, e quel pezzo di muro lì è Foratti, capito? Devo una micchiata a buccarlo, è Foratti. Ah, per fare quel lavoro là? È positivo, adesso perché c'è mio nipotino, sta facendo questo coso di battere questo corso, di questo professore, insegnargli la batteria. E c'è questa batteria in mezzo ai piedi, capito? E a me, cameraletto non mi va proprio, non so, devo avere una camera appositamente, capito? Ah, beh, certo che sì. Mio fratello, eh. E vabbè, anche noi siamo rimasti in pochi, cioè dei vecchi. Pochissima gente, c'è un po' una separazione totale, oramai è stato deciso così, quindi siamo un po' qui nel 10, un po' parlano al canale 21, un po' nel 5, insomma. Però siamo rimasti in pochi, a prescindere che non parliamo un po' tutti assieme, ma siamo rimasti in pochi, non è che ci sia tutta questa gente come ai vecchi tempi, no? È vero, ma purtroppo manca anche la mascotte. Lo so. Vabbè, pazienza. Quando c'è gente si parla, quando non c'è nessuno, pazienza. Io sono tutti i giorni in radio, tutti i giorni parlo, perché qua nel 10 sta entrando abbastanza gente. Abbastanza gente. Anzi, pensavo che si erano un po' ritirati tutti, invece si parla, si parla. Non c'è problema. Ci mancano le grattate di Falcone per ora. Ehi, aiuto. Cazzo, ci vuole solo lui, mette le palle e poi siamo arrivati, Ma è andato troppo forte. vecchi ricordi, vecchie cose. Tu quanto l'hai conosciuto a Falcone? Sì, ma è quello... E graziava il microfono, farmi sentire il pelo. E faceva pezzi... Roberto Bandito, altri vecchi cibino, lo vedi a pezzi che lo facevano morire, guarda. Troppo dopo, no, lui adesso è senza genitori, se l'ha ritirato la sorella e del paese, capito, non sta più qua a Sassari. Perché la sorella lì ha venduto, dove abitava lui ha venduto. Hanno venduto lì, ha comprato la sorella di un vecchio CB che siamo molto molto amici, ma ha dovuto rifare tutto l'appartamento completamente perché era distrutto quell'appartamento. Se vedi cosa ha dovuto via, era impressionante. Posso immaginare, lei prende fatto la... Ti manca il gioco del calzino, sì, mi ricordo. Esatto, faceva il gioco al calzino. Ui. Buonasera. E se lui si va a fa carità di Gesù Cristo, di cui mi aveva poco di casino. E Pomponio che fine ha fatto? L'ho più sentito. Chi, Cristian? Pomponio, Alessio. Ah, Antonello c'entra ogni tanto, c'era anche ieri stamattina. Ma adesso sta riposando, non so, o è uscito, ma comunque già entra Antonello, e già c'è sempre. Mi devo dire. No, te l'ho detto, dei vecchi già ci siamo un po' tutti là, però siamo un po' sparsi da una parte all'altra. Ma io ho un Antonio Falchetto, Luigi Vulcano, entra anche Alghero, siamo sempre qua sul canale 10, non c'è problema. Poi qualche altro lo senti sul canale 21, qualche altro sul canale 5, ma ti ripeto, siamo rimasti molto pochi, dai. E Tonino Krasaki, non si è più sentito? No, Tonino aveva venduto tutto. Sta entrando dalla macchina, se ti ricordi Giuseppe, Leoncino, ti ricordi Giuseppe, quando c'è la macchina alla stazione? No, non mi ricordo. No, la macchina sta entrando lui. Ogni tanto si fa due chiacchiere con lui. E vabbè, degli altri, proprio vecchi, c'è rimasto i vecchietti, e quelli sono mitici, quelli ci sono sempre. Però di noi, insomma, dei cinquantenni, è rimasta ben poca roba. E la Paoletta, te la ricordi, non so. Ora abitava qua vicino a casa mia, Carbonati, abito qua, Carbonati. E Paoletta, aspetta ancora, e poi se lui si dice che quegli anni c'era un'altra Paoletta qua, ottava, mi la trovo dai tasti di ferro. Ah, sì, Paoletta è quella lì che ti ha scelto lui. No, questa che c'era qua vicino a me era Daniela con Vincenzo Scoiato, che c'è ancora l'antenna. Infatti mi avevano lasciato il 140 da vendere, l'avevo venduto, perché Daniela si è sposata e l'ha abitare a Porto Torres. Ma lei stava, se non mi ricordo male, di parte di via Genova. Infatti un giorno gli ho chiesto se riguardava il canale. cantina se c'era qualcosa di, se c'è qualcosa buttata lì in cantina. Ho visto di, che il padre è molto d'apparecchio, è molto già di mesi anni, anche lui era, parlava, lui è anche Cascello, il marmista Cascello, erano due cognati e avevano, parlavano molto al baracchino. Questo addirittura si attaccava a lineare, non ti faceva vedere la televisione quando era bianca e nera, questo di Lugo, che era bianca, la casa che c'è a fianco a me, quella bianca più vecchia. Ah, quella io ho capito chi era. Era l'antenna, ne cacciò dalla poco, mi l'antenna, era messa a metà l'anno scorso, nel vento poi ne è caduta, era mezzo troncata, ne era buttata giù del tutto il vento. Sì, che praticamente abitava, se non mi ricordo male. Se non mi ricordo male abitava lì vicino a, praticamente Torre San Giovanni era dietro e lì era davanti, così è. Sì, positivo. Allora già ho capito chi è. Vai, avanti. Riprendi al tuo parra. Sì, io me lo ricordo tantissimi anni, c'era questa antenna. Appena appena mia madre dove abita Gigino, non la ricordo una tela. Oh, sì, ma l'ha buttata a poco, mi ha detto, lui sa da anni e anni attaccata a Sant'Enna, che non è morto già parecchi anni questo, che era, non mi ricordo cosa faceva, però guarda, è una persona bravissima, questo di Lugo, questo di Lugo, non so se era radioamatore, però ci aveva tante cose, tante attrezzature, era molto appassionato questo. Però sia che la notte, io parlo quando era bianco e nero, nei primi anni 70, inizio degli anni 70, e quando Motor parlava questo, interrompeva la televisione, capito? Beh, è positivo. Positivo, beh, come se Da. Non dici niente. Ciao, Pupetto, giocando sai. È positivo rientrato adesso. Ehi, ehi, ehi. Non dici niente. Da. C'è un innesco, un leggero innesco c'è. Non deve innescare. Non deve innescare. Ci vuoi fa? Che ci vuoi fa? Che ci vuoi fa? Yeah. un vecchio amico d'infanzia, praticamente il padre della moglie del figlio di Luigi, ecco, per dirtelo bene, anche se no non lo riesce mai a dire cos'è. E stiamo organizzando a fare una bella zuppa quando rientra, adesso lo imparte quando rientra, capito? Ah, positivo, buonasera, ben ascoltato anche a lui. Sui montagne, io sono qua a Carbonazzi al grattacielo, sentivo 9 radio super 5 con questo baracchinetto qua, 23 canali, spaventosa ricezione che c'ha sta radio lì in Ayanto. Ciao Claudio. Ciao. Buonasera a tutti, capri due la Molor che vi super saluta. Ho spolverato adesso un po' la stazione, dopo tanto tempo, da quando l'estate è vero, non so che ci sia in frequenza, ti rimetto il cambio Claudio. Ciao Gianni, ben entrato, ci sono io, c'è Antonio Falchetto, Fantomas da Sassari e Luigi Volcano che è un po' impegnato con la famiglia, comunque lì a Ottava. Io sto andando con l'HB 23 canali e il termine più 3 da tavolo, mi ascolti bene? Benissimo, è il mio garage, ce l'ho anche io, ce l'ho l'HB 23 però da rivedere, dentro una scatola ce l'ho il garage, nuovo nuovo però. Non so se funziona ancora, ciao Gigi Vulcano, ciao Antonio Falchetto, ciao Fantomas. Sono un pochettino così giù di morale già, perché sono di lutto fresco, sono, è morta mia madre la settimana scorsa, io di 20 giorni, quindi non sapevo cosa fare e ho anche una frazione, riprendi. Hai fatto bene Gianni, hai fatto bene, io ti faccio le mie condoglianze e anche la mia. Tre mesi quindi è così bisogna andare avanti, non bisogna fermarsi. Loro ci hanno insegnato questo e noi dobbiamo apprezzare quello che ci hanno insegnato. Ti mando avanti Antonio Falchetto, avanti Antonio per Gianni, Gianni non me lo ricordo, vabbè Gianni Capriluna, dai, ben ascoltato dopo tanto, ben entrato, condoglianze anche da parte mia. È tutto positivo, dai, la vita continua, in effetti confermo quello che stava dicendo Claudio, dai, si tira avanti, comunque buonasera, ben entrato Gianni, mi fa molto piacere averti sentito. Ok, grazie, Anton, grazie, e certo la vita deve continuare, una roba improvvisa, come ho spegnito un interruttore, 20 giorni a terra, un tumore fulminante al pancreas. E non era neanche anziana perché aveva 72 anni, quindi. E così è in casa, stavo girondolando, a papà che ci siamo noi, che ancora anche lui, mi ha 77, c'è mio figlio che è qui, sto girondolando, non sembra che mi faccia una passione perché è un mortorio, tutto lì. Comunque niente, la vita come ha detto Claudio continua e deve continuare, se no andiamo anche noi. Giro di una settimana è stata ricoverata una broncopolmonite purtroppo è così, bisogna stare sempre allerta e fare ciò che loro ci hanno insegnato, quindi andare avanti e pensare a portare noi avanti la famiglia, che ne abbiamo ancora tanto tanto tanto da fare. Ok, avanti Fantoma, se ci sei, se non riprendi tu Antonio. Pazienza, purtroppo la vita è così, Gianni. Va bene, riprendi Gianni, capi due. Mi riprendo io, scusi, di niente. Questa roba era ferma tutta l'estate, ho fatto anche qualche modulata su 45, con i camionisti della Sicilia, che è tipo, cosa posso dire, Vittorio, tutti questi che conoscete voi, e mi stavo anche un po' divertendo, poi l'avevo accantonato una parte e adesso l'abbiamo riacceso, sembra che stazionale non neanche funzioni tutto bene e va benissimo. E gli altri di Falchetto, ci sono ancora gli altri CP, quella ruota la fate sempre? Ah, io sono su questa ruota, gli altri sono sul 21. Niente, già ci saranno sempre, io sono qua su 10 e basta. Ok, io ho acceso questo, sto usando il Midland da stazione base e poi sono gli altri, qui va il primo che era attaccato, ho acceso, quindi niente di particolare. Riprendi Gigi, mi ascolti? Sì, Gianni, devo vedere anche Giancarlo, è morto, se ne è andato Giancarlo, non so se avevi saputo. Giancarlo? Quello di Terralba, che mi si è contato tu, è morto Giancarlo. Ehi, quanto mi dispiace, poveretto. No, ma volevo andare a trovarlo, so che c'è un avvento che però non pensavo che era... Mi dispiace molto, e guarda, io sono una persona molto sensibile a queste cose. Molto sensibile, ho parlato per telefono con Giancarlo per lungo tempo, perché era una persona che mi piaceva dialogare, come faccio con Claudio, come faccio con Antonio, come faccio con una persona veramente che si prestava al dialogo. Mi dispiace molto, telefonerò, il numero alla moglie a farmi le mie condoglianze, perché aveva preso una persona e un tecnico veramente valido per gli apparati. Mi dispiace moltissimo. Riprendi Claudio. Eh sì, noi abbiamo fatto il telegramma, appunto, io l'ho fatto personale come radioamatore, poi l'abbiamo fatto come sezione Ari, perché era veramente un grande radioamatore, un grande tecnico, soprattutto una persona veramente in gamba, veramente, non ci sono state parole, veramente, una persona che è venuta a mancare, molto molto interessante alla collettività un po' in generale. Avanti Antonio. Positivo, positivo. Purtroppo così. Che ci volevo fare? La vita continua. Mi spiace perché era una brava persona, un bravo tecnico, un bravo tutto, ecco. Purtroppo la vita è così. Che ci vogliamo fare? Purtroppo, riprendo io, purtroppo è così, ma gliel'avevo detto a Gianni, siccome ci dovevo andare, io gliel'avevo detto a Gianni, guarda che non sta bene, che sta malissimo, è morto, è morto prima di Ferragosto, una settimana prima di Ferragosto, in quei giorni mi si è messo alle 13, 14, in quei giorni lì è morto Giancarlo, non mi ricordo di preciso, ma in quei giorni lì mi sembra che era Claudio. Però poi ero in estate con mio figlio perché ha fatto un po' di serate, capito? E poi è iniziata la storia che mamma e mia in casa stavano a sentirsi male, quindi scendevo a fare compagnia a papà un po' e poi di girare anche lì la cola. C'è stato un break, c'è stato, non so se mi ascolta, con la buonasera, qui era Capri 2 che le stiamo durando dal Cucchiacca di Muro in compagnia di Claudio Sparmiero, la Sassari, Antonio Palchetto da Sassari, Fantomax che non ho capito dove modula, e Gigi Vulcano da Ottava. Guarda il break, la capitura le rimette il cambio, vieni avanti. dammi conferma, Gianni, se mi dubbia. Così Luigi. Cosa è successo? mi sta facendo. Avanti, Gianni. Capito, amici. sempre uguali, io uso solo MC60, uno per ogni radio, poi vedrai se noti differenza. Ok, vediamo un po' se è rientrato Falchetto. Anto, ho negativo ancora al telefono, prendi tu Gianni, dimmi se noti differenza da 4.40 a 4.30. Per dare un'occhiata e ho visto che non scherzate, parecchie, le prendi l'animo. Thank you. sentirti meglio. Ok, avanti Gigi. Ma l'ho visto segnale di quello che sta facendo la pernacchia, sì. A voi di Zirigoso, là. Momentaneamente che è arrivata gente, se vuoi entrare noi siamo qua dopo, continua pure. sentite bene, non avete problemi. E mi allontano un attimo, non ho fatto gente, ma lascio tutto acceso, ok? No, li chiudo pure io, dai, che avete preso ora, ti saluto pure io. Ci sentiamo dopo oggi. Parte delle serie le passo sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. stops at about the gate. That's your bloody call, eh? I'm going to get the other spot, but then that's out. I'll be there by